La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. Dopo la pausa estiva, Dino Pesole ritorna a parlare di storia e ospita ai microfoni Marco Videtta, sceneggiatore e autore di Un bell'avvenire, romanzo pubblicato da Edizioni EO. Il racconto delle vicende personali di due fratelli è il pretesto per l'analisi della nascita dell'identità fascista. Il fascismo, è ormai accertato, ha avuto soprattutto negli anni 30 del Novecento un forte consenso popolare, favorito dalla censura, certamente dalla dura repressione messa in atto dal regime, contro ogni forma di dissenso, ma non solo. Torna in discussione una questione centrale per indagare su quegli anni tragici della nostra storia nazionale, quella della cosiddetta identità fascista. Abbiamo scelto oggi di raccontarvi una storia lacerante di identità fascista, la storia di due fratelli che aderiscono al fascismo e che poi l'irrompere degli eventi, dopo la caduta di Mussolini, spinge su percorsi anche umani, oltre che politici, per molti versi imprevisti. Lo facciamo in compagnia di uno scrittore che è anche un affermato sceneggiatore, Marco Videtta, che è qui con noi oggi in studio. Benvenuto, Marco Videtta. Buonasera. Bene, Marco Videtta ha scritto un bel libro per le edizioni EO. Il titolo è Un bell'avvenire. È la storia di due fratelli, Lucio e Fulvio. Il primo fascista autentico, fanatico. Il secondo vive nel mito del fratello. Di fatto è il fratello maggiore, Lucio, a decidere per entrambi. «Sbrigati», mi disse Lucio senza darmi il tempo di replicare. «Se prendiamo il tram tra un quarto d'ora, siamo al distretto militare». A bordo mi spiegò che per noi c'era un unico modo per fuggire dal nostro ambiente provinciale e uggioso. Arruolarci come volontari, diffondere nel mondo le nostre idee, la nostra civiltà. La guerra ci avrebbe consentito di vedere mondi sconosciuti e altrimenti irraggiungibili. Sarebbe stata un'avventura che avremmo ricordato per il resto della vita, la prova della nostra virilità e del nostro coraggio. Finalmente avremmo servito la causa non solo con il pensiero, ma anche con l'azione. Io lo stavo ad ascoltare, ammirato e attonito. Stava succedendo tutto troppo in fretta per me, abituato com'ero a ponderare le decisioni, a cacare dubbi, come mi diceva sempre Lucio. Però la mia fiducia in lui era senza condizioni. Lucio mi stava chiedendo di fare insieme la cosa più importante, di condividere una scelta coraggiosa, dalla quale saremmo tornati più forti o non saremmo tornati affatto. Una decisione da uomini. Ecco Marco Videtta, una decisione da uomini, dice Fulvio. La trama del libro, lo anticipiamo ai nostri ascoltatori, è tutta in questo rapporto speciale tra i due fratelli e nella lunga ricerca che a guerra finita Fulvio intraprenderà in giro per l'Italia per scoprire come e chi abbia ucciso suo fratello, i partigiani o gli stessi torturatori fascisti della banda Koch con cui Lucio aveva collaborato. Intanto ci spieghi com'è nata l'idea di questo libro. Ma il libro ha avuto una lunga gestazione, durata anche parecchi anni, finché poi c'è stato un episodio che riguarda una mia vicenda familiare, e cioè che mi sono ritrovato proprio in casa, consegnatomi da, ahimè, mio padre in punto di morte, dei documenti un po' ingialliti, sai, con la carta proprio consumata, quella che si polverizza, che sono andato a guardare, erano gli atti del processo alla banda Koch, che era questa famigerata banda di SS italiane, come le chiamavano. E con mio grande stupore, potete immaginare, sorpresa, ho scoperto appunto che c'era questo zio in famiglia, poi morto, eccetera, che in un certo senso forse aveva partecipato. Dico forse perché poi in questi atti del processo si rivolgevano accuse reciproche, lui e questo Koch, quindi non si è mai capito se era un doppio giochista o quant'altro. Fatto sta che fece appunto una brutta fine, come uno dei due personaggi del romanzo, nei giorni a ridosso della liberazione del 25 aprile. Allora, la trama del libro è di fatto una storia parallela. Il genere è quello di un noir avvincente e incalzante, dove non mancano le sorprese e anche i colpi di scena. Sì, diciamo che io utilizzavo, venendo diciamo da un fortunato noir scritto insieme a Massimo Carlotto, insieme a Nord-Est, ho un po', come dire, imparato a controllare le regole del genere, che è sempre un modo. Il noir è un genere secondo me nobilissimo, perché ti consente di parlare della società, di qualunque cosa, tenendo viva la tensione del racconto. Però io spero, insomma, credo che il romanzo sia anche un po' un romanzo di formazione, perché la frase che avete scelto, cioè quando lui dice era una decisione da uomini, in realtà è una decisione da ragazzi, perché questi due protagonisti sono nati uno nel 1917 e l'altro nel 20, quindi esattamente con il fascismo, e non hanno conosciuto altro. Cioè, se in famiglia non avevi una memoria diversa, se non appartenevi magari a una parte politica che ti trasmetteva altro, ma appartenevi a una piccola borghesia, una media, anche a volte, no, a ceti diciamo bassi tra virgolette, la propaganda fascista era stata talmente capillare che tu dall'asilo in su non conoscevi altro che ciò che ti insegnava la propaganda. Quindi arrivavi a 20 anni che avevi voglia anche magari di partire volontario per la Russia, come desiderano fare questi due fratelli, soprattutto sì. Il maggiore, tranne poi il fatto che, questo lo possiamo anticipare perché mi sembra un passaggio importante, essendo affetto da una rarissima malattia agli occhi, lui viene scartato, diciamo, dall'esercito, quindi il fratello minore, anche meno convinto, ancora più giovane, da lì in poi intraprende a vivere la vita che avrebbe voluto il fratello maggiore per sé, e quindi comincia questa strana sovrapposizione, questo parallelismo nella storia di questi due fratelli. Quindi in questo caso il problema dell'identità fascista, che noi abbiamo scelto come tema del nostro approfondimento di oggi, è una scelta che deriva in prevalenza da motivazioni familiari. Sì, perché a volte era sembra incredibile dirlo oggi, anche se uno parlasse con tanti giovani di colore americani oggi e gli chiedesse perché sono partiti volontari per l'Iraq, ci darebbe quasi la stessa risposta, perché comunque entrare a far parte nell'esercito, magari riuscire ad entrarci dopo il corso allievi ufficiali, da ufficiali, significava avere uno stipendio anche discreto col quale magari si dava una mano alla famiglia, no? Magari si partiva per motivazioni economiche, però sicuramente il protagonista del romanzo, perché il protagonista, c'è una voce narrante che è quella del fratello minore, che vuole indagare a un certo punto, per una serie di una concatenazione di avvenimenti, si interroga sul perché della morte di questo fratello maggiore che lui ha idolatrato, e da lì intraprende un viaggio sia fisico attraverso l'Italia del 1948, che è un anno chiave, insomma, nella storia della nostra democrazia, e sia un viaggio di formazione, no? Perché questo è anche un romanzo di formazione, nel senso, lui capisce che tutti gli ideali in cui lui ha quasi smesso di vivere, perché lui ha vissuto la caduta del fascismo come un fallimento personale, ma ha solo 25-26 anni a quel punto, capisce che invece tutto ha ricominciato a girare vertiginosamente, e lui è in mezzo a questo vortice che non capisce più, che non comprende, che è l'Italia del dopoguerra. Questo libro ha anche un'ambizione, quella di cercare di superare con un balzo in avanti la querelle che si è determinata nel nostro paese, da un lato tra un revisionismo pieno di strumentali rimozioni e dall'altro una certa retorica resistenziale. Sì. Quindi è un libro che ha anche un'ambizione. Sì, mi sono preso un rischio, diciamo, una scelta sicuramente coraggiosa, che appunto anch'io spero, se non altro, che smuova, come si diceva una volta, un po' di dibattito, sì. Anche se in questa fase storica il nostro paese è un po' difficile. Però sì, infatti attraverso una serie di quelli che in cinema si chiamerebbero flashback, si parla appunto degli anni pieni del fascismo, anni 30, anni 40, la guerra, eccetera. Però, diciamo, la storia si svolge nel 48, che, come anticipavo prima, è stato un anno chiave. Un anno chiave, perché l'anno che ha acclarato definitivamente la democrazia è anche l'anno in cui la Democrazia Cristiana vince le elezioni, è l'anno dell'attentato a Togliatti, che era il segretario del Partito Comunista di allora, ma è anche un anno in cui probabilmente si era già entrati in guerra fredda, in una nuova guerra. Dopo un viaggio segreto di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti, sì. De Gasperi tornò con, in cambio dei famosi aiuti Marshall con cui l'Italia... Con l'assegno. Esatto, il famoso... con cui fu ricostruita poi di fatto l'Italia, però in cambio di questo col patto, insomma, che la, a tutti i costi la sinistra non avrebbe mai dovuto governare e gestire questa fase di transizione soprattutto. E così accadde. Per far accadere questo avvenne che in tutte le istituzioni, nella burocrazia, in polizia, nella magistratura, vennero richiamati moltissimi ex fascisti amnistiati dallo stesso Togliatti, che allora era ministro della giustizia. Questo è un elemento chiave, perché ci dà un'interpretazione anche abbastanza nuova di quegli anni. C'è stata una continuità tra c'è il stata fascismo una sorta e la di Repubblica. Continuità, sì, c'è stata una sorta di continuità in una zona grigia su cui forse nessuno ha voluto fare chiarezza. Probabilmente chi aveva vinto non ne aveva voglia e comunque aveva accettato di fatto un compromesso, cioè quello di rientrare nelle istituzioni in modo mascherato, quasi rinunciando alla vecchia fede fascista, ma si erano semplicemente molti magistrati che erano famosi per portare la camicia nera sotto la toga hanno continuato a esercitare la magistratura fino al 1965. E questo spiega molte cose. E questo spiega anche il fatto che ci sono ancora oggi, ci portiamo dietro una mancanza di chiarezza che invece altri paesi sono riusciti ad avere. Un'ultima domanda che riguarda un elemento di attualità che emerge chiaramente dal suo libro, che riguarda la questione in qualche modo del fanatismo. In qualche modo se ne può trarre un insegnamento anche per giorni d'oggi? Sembrerebbe di no, perché questo stesso fanatismo giovanile sta riaffiorando nelle curve degli stadi. Le racconto un episodio, magari per chiudere con un aneddoto piccolino, senza massimi sistemi. Proprio mentre scrivevo il libro, una volta mi ero fermato a fare un bancomat, semplicissimamente. A un certo punto ho pensato di avere una sorta di allucinazione uditiva, perché è partita una voce alle mie spalle, la voce di Benito Mussolini, nel famoso discorso della dichiarazione di guerra, vincere e vinceremo, quella roba lì. Mi sono girato pensando di essere impazzito e invece c'era un ragazzo con la testa rasata ed era la suoneria del suo telefonino. Cioè, quindi ancora, diciamo, questi, no? Questi mirabilia, insomma, queste cose continuano a fare presa lì dove c'è, secondo me, molta ignoranza, ma questa è un'opinione personale. Grazie Marco Videtta, allora lo ricordiamo, il libro è Un bel avvenire, di cui ovviamente consigliamo la lettura. Grazie ancora. Grazie. La storia e la memoria torna tra poco.